9 freghi quasi tutto, e da 9.10 vai a 9.20, quando funziona. Sì, adesso sta andando, perché lei sta agganciando. Dove se qualche spezzone di merda, guarda. Ora può sta andando un po', guarda. Sì, vabbè, comunque l'antenna adesso è tutta messa bene, più alta, capito? Poi c'ho aiuto, normale che arrivo più forte. Come più alta? Quanto non è alta? Prima era il palo che c'ha da destra, prima c'è quello di la base, no? Quello lì c'è sempre. Poi il palo che c'era prima, agganciato nella mano, era 1,20 m mi pare, adesso questo qua è 2 metri. C'è più alta, un po' più alta. Sì, vabbè, potevi mettere anche un altro spezzone di palo. Via, bella. Gianni, ma sei attenuato? No, io adesso no. Aspetta. Perché questo è lo spezzone che non sta andando. Deve essere che l'hai fatto male. Non è andato bene, forse. Perché se lei li sta agganciando qui. Aspetta, vada. Aspetta, vediamo. Adesso sì. Comunque costa 70 euro adesso per lui, io l'ho venduto 30 mi pare, a te molto te l'hanno venduto. 100 euro l'hanno venduto. 100? Ah, non di cazzo, il nuovo mantello costa nuovo, la GBC che è un mercato. Che ti ho mandato un messaggio già qua. Costa 70 quello lì, su internet, e poi se va la GBC la devo pagare 90 o 95 mi pare. Mi sentite? Sì, a te. Ma molto basso sono il segnale. Prova. 1-3 prova. 6-9-5. Cazzo è successo? Cazzo, Pilendi è l'Inter. 2-0. Cazzo, o Sassuolo. Mi sa che Pilendi è più volte l'Inter, troppo. Possesso di palla. Possesso di palla ce l'ha più. Ah no, è possesso di palla. Possesso di palla. Cazzo, l'Inter. Cazzo, è Pilendi 2-0. Cavagara. E Ivano non fa cazzo. E beh, claro. Come siete convenienti? Sta prendendo 2-0 col Sassuolo. Allora devo su un po'. Ma come non sta agganciando adesso questo cazzino lì? Ma così non va bene. Così perdete. Perdete troppi punti. Vabbè. Ciao a tutti, buonasera. Dai, ci sentiamo. Ciao. Claudio, com'è la cortesia? Ci sei? Hola. Claudio, ci sei? Allora, quando detto ci sei, se ti sentivamo, passo passo, per lo meno ti sentivo così con l'alternato. Vabbè, quella è un'altra storia, adesso va bene. Sì, adesso. Sai perché non sta agganciando il relè già? Perché praticamente non sta facendo massa bene, l'ho appoggiato così nell'alimentatore, l'alimentazione. Non sta facendo massa bene e fa quel problema lì. Mettilo bene quando lo vedi. Ci sei Claudio? Cazzetta, la zia e si innalda. Vabbè, comunque là. Non scalda molto neanche, già è. Ma lo sai che li metto la ventolina alle merda? Anche io l'avevo messa. Abbiamo messo una ventola sopra di raffreddamento. E adesso vediamo, là. Vediamo, è roba nuovo mi già. Si ammante. Io l'ho dato, me ne sono pentito. L'ho dato, non mi fa parte. Vabbè. Lascia vedere. Attenzione, KK! Ah, basta, è cansato, vai, mi. A tu e a me, dite che è aggiustato. Ma va aggiustare. Dite che non usciva di radio, non te la metti più. Sì, lo deve guardare una persona. Ho capito, ma qual è quello 5-5-4? Eia, ho capito cosa era. Io il cazzo di Vegliani Geco. E cos'era tu? Il finale. Ma che finale? Il coso è? Il filo attaccato. Ah no! Ora! Un panno sa già! Prova! 1, 2, 3, prova radio! Ora, mica sta suonando il campanello, Ammazza, devi fare! Canteggia! Fondo scas! Va bene, ha detto che puoi passare a me pure, va bene così, Guarda che me sa se c'è cosa. Lasciami consumare corrente, 40% di aumento, l'elettricità. Già un pago io. Un attimino che mi aggancio bene l'amplificatore, dai, un attimo, arrivo subito. Gappa, gappa. Ora, ora. Ora è tarato bene, sto sbattendo più di 200. Secondo me 220, qualcosa del genere. Che marca è tu quello lì? Il settaggio modificato è questo. Modificato? Sì. Cosa c'ha? Le valvole più grosse? Valvola americana c'ha. Gabba gabba, questa è una bestia. Vai, vai, vai, tieni, vai. Adesso proprio tutta potenza, Sto uscendo a tutta potenza adesso. Però Luca ti passava? Che è più vicino a te, se no domani. Bisogna avere un canale, infatti. Gappa gappa, chi che vuole entrare, avanti. Allora, lascia vedere, adesso dovrebbe andare bene, Vediamo un po', scusa un attimo. La mappa deve in varia. Scusate, 2 secondi. Ok, sei a posto. Il DB stai toccando qua, Ma sei a posto, Anto, prima non stavo agganciando. Tanto non stavo facendo massa bene. E la radio è buona, No, non vai in saturazione. Quanto riserato di entrata? I watt del 3009 già. Penso 6 watt. Con 3009 stai uscendo. Sì, 6 watt da. Comunque ho controllato praticamente a scala 200. Praticamente va oltre 50, perché sono a scala 200, minimo questo qua sta andando più di 100 watt. Ma tu fai che c'è un gozzo. Tu lo devi mettere a scala 100 per vedere se va a 100 watt. Non li fa nemmeno 100 watt, le da 80, roba così. No, allora il mio rosmato lo fa 5, 20, 200. Ma tu che il DB in questo apparecchio, lo sai? Però, sì, me l'hai detto tanto, sì. Però, come si dice già? Ho notato che quando vado a modulare sale oltre 50, capito? Scala 200, Praticamente il mio fa 10, 100 e 1000. Vabbè, io ho l'RSX 200. E suga, allora mettiamo una bistecca qua. Scala 100, cibo. Lo passo a Gianni. Ce la mettiamo una bistecca qua. Vabbè, me ne dava 80 quello lì. Uguale, identico, 80 watt. Poi se li mettete più watt, allora arrivava anche a 100. Se lo portavo col Cobra, però mi hanno detto che mi faceva uscire un po' saturo. No, io saturo lo so, guarda se c'è la differenza, si sente, guarda. Sganciato e attaccato, sente la differenza dalla radio? Assolutamente no, non c'è nessuna saturazione. Che aumenta con la radio? Mi aumenta la radio a me già. No, a te no, a te te la uguale, identica come sganciato e anche sganciato. Però a me dice che me la aumentava, non lo so, io c'avevo l'amplificato, lo stesso in macchina e pompava forte, andava bene. Quando andavo a Porto Torre, già lo usai, no, non era amplificato, era modificato l'apparecchio. Ma tu lo conosci a Torre Mura, quello che abita a Porto Torre, si che faceva buttare fuori prima. Muratore? Torre Mura, c'è un muratore. Fai il serio, io. Lo conosci, infatti lo si chiama Domenico Mura e fanno un buginato. Già lo conosco. Sta morendo. Lo conosci. È il ragazzo di una commessa che c'ha da noi. Ma chi? È il figlio di quello che c'ha la palestra. Il figlio di quello che c'ha la palestra? C'ha la palestra del pugilato. E me? È il figlio, No, ti sei sbagliato allora. Quello lì si chiama Tori Mura lo stesso. Allora, praticamente, Mura sarebbe il poliziotto, vabbè, quello che è morto, aveva la palestra del pugilato lì a Porto Torre, si via delle Vigne. E poi il figlio, questo figlio, Tori Mura, sta con la... con questa commessa che lavorava. Non è lui allora, non è che apparenze, non lo so. Se la parte è pugnata in via delle Vigne. La stradale era. Non è più. Sì, già la di già. Proprio pure il figlio si è malato di tumore. È stato male un giorno. E ho trovato. Come si chiama? Ma aiutami, l'avevo trovato. No. Le cose, no, no, non le. Ma comunque ho avuto fuori la trasfusione, dai. Ho capito. Ma c'aveva. Come si chiama? La leucemia. No, le piattine base, boh. La leucemia fa questo lavoro qua. Abbiamo fatto la trasfusione di sangue e anche il cambio del midollo, se ne esiste. Ma cosa c'entra col tumore, scusa? È un tumore a sangue. No, sangue. No, non c'è un tumore a sangue già. Non stiamo dicendo la stessa persona, no, No, assolutamente no. Non è lui quello che sta dicendo tu. Gappa, gappa. Ora, adesso è bello caldo, Bene, va. E poi che mi secchi. È vero, mi sentivo nero fare i gozzi, no? Tu che mi piace un sacco, Giacca, se mi frequentava con noi, faccio la butta fuori da Mirko. Oh, stava bene, il sabato, faceva karaoke. Aspetta quando ti arriva la bolletta. No, consuma molto. Le valvole hanno assorbimento, quanto? I transistor non consumano molto, ma le valvole hanno molto assorbimento. Ma il patavanni è giusto, questo ci può attaccare. È l'arma alla guerra, questo. Ah tu, quello lì praticamente non c'è bisogno di attaccare la stufa, non è? Ecco qua, spento. Aspetta, ma da curastro che è meglio, va. Spero di attaccare un peso, pulisci, non c'è nulla attaccato. Ah, vai da qua. Che cosa già? Come mettere il venduto già? Per passare a una cosa superiore. Ah, ne un altro ne hai. Questo qua, bene va. Benissimo, che ho messo i pomeri me la tutto. Ecco, si aspetta. Ok, si è a posto. I pomeri. Ma anche io uscito nuovo è uscito già. Ecco qua. Così è. Ecco. Vediamo. No, vedi. Sta toccando un po'. Nuovo è per anche io uscito. Già lo so. E si sta girando il tuo gatto. Usiamo questo che è molto meglio, dai, se no chi ci sono io già. Praticamente graffiato dove c'è attacchi la staffa, dai, lì, un po' graffiato lì, ma era della posta. Meglio dei miei già sono, dai. Sì, sono venuti, ma la staffa è normale che come vai a strada, è fatto, appena appena. Ma lì esce anche con la pasta abrasiva perché non è un graffio scavato. Ecco qua, questo va molto meglio, dai, chi di buon padrucco. Pomposo. Ma sai che era il Bayendi, cazzo, meno male me ne sono accorto poco fa. E l'attacchendi, la storm l'attacchendi. Cazzo, non si sa mai che ti crei sciogli. Ma tu che dove succede adesso? Via. Yeah. E come l'attaccate, fanno? No, no. Quella là ce l'ho messa più su, dall'altra parte. Ah, e chi va meglio? Non lo so, come sto arrivando con questa? Prova. Vuole tre prova, questa la ringo. E prova l'altra. Adesso apparecchio, stesso tutto, Aspetta che cambiamo. Quanto sono con questa? Che cambio PL. 9,3. Con questa già? E più o meno, fai. 1,2,3 prova. E non sei proprio 9,30, ma più o meno, 9,25, 9,20. Gappa, questa è la storm. Praticamente, vabbè, ho attaccato, cioè sempre con tutto uguale, batte tutto. Cava. E vabbè, la prima era un po' migliore, dai, ma va bene anche l'altra. Gappa, l'ho messa a 5 metri più su, questa, 5 metri di più puro. Questa è stata meglio, prima arrivavi più basso. No, non mica l'ho tolta, è sempre questa. Prima arrivavi 9,20 a tu. Forse è cambiato apparato, non lo so, dai, tu devi altri. Gappa. No, questa è sempre la storm. Adesso cambio con la ringo. Tra un po'. Attacco la ringo. Gappa. notizia? Che non vedo nessuno già di questa manoffa, mi la sto conservando. La maschina lo stesso già è un po' graffiata, non è rotta. Questa, quella che c'era prima, un po' graffiata, non si può fare nulla, no. Qua anche quello che si può fare, sai cosa è? La fai diventare nera, a vernici di nero, però non la tocca nessuno, me la tengo io, no? Questa spanta va bene anche nel iPhone. E se la metto nel adesso già, qui sono 2.000 e 3.900. Questa la ringo già. La ringo, va bene. Cappa, è tutta la sua storia, la sua musica. Sì, ma devi comprare, come si chiama, la Game Boy. Dove hai detto che te la compra? Tu. Ehi. Ti metti una... la 58 e tu spari da lì, Già ho capito che sparo già. Ehi, Robin Sandy, Robin Sandy, ma ancora... prima mi do pure le cose a posto, poi vediamo. Infatti, prima dove le piace. Come ti aggiungerisci dal barbiere, ce l'ha matto, fa cazzo buttata, se te la tanto. Non le dà, l'ho trovato l'altro giorno, l'altro in unità, ho detto che si pratica c'è in Kiwi, non le dà. Giù maledo. Quello di via Succi. E allora, non le dà. Tanto non siamo occupati anche non è niente. Ma non è apparecchio. Oh, ma sa di no. Sì, che ce li ha, cazzo che ce li ha. C'è anche apparecchi buoni, se ne ha regalati un zio. Però lì spara forte, non che arriva a fondo scala. Ti dico anche che c'ha un Tristar, cosa che adesso non si trova più, non c'è che anche meglio lì su Tristar. Pappa, aspetta che io vado in bagno, ci stiamo. Magari fa ascolto, Alex, farà ascolto. Quando magari si tocca, se la attende, è cosa. Non lo so dire già. Lì è nato, lì spara forte perché è nato. Lo so. Allora, io ho notato che si vede l'antenna con la mia con la sua, si vedono proprio, l'ho visto dal tetto mio, capito? Quando c'è tutta la zona buona, c'è tutta quella zona lì. Per la città va bene, e anche per la zona del mare. Sì, tu, stanno, tu mi stai scaldando, Lo sai che sta scaldando, ma scalda già un bel vero. No, un vero. Scalda un pochino, appena appena. È caldo, È caldo. Ma c'è dissipatori, lui, c'è dissipatori. Dissipa così il calore. Cioè, vabbè, però che non controllo la casa, deve essere, cioè, cambiava qualcosa da lui. Perché non lo sapevi che io me l'avevo preso lui? No, quale hai? Io ho l'RM Italy da 300 watt. Ah, l'ho visto su internet. E viaggia? E beh. Ha agganciato, sì. No. Fanno una prova. Siamo vicini. Aspetta il piattino, aspetta, parla. Cosa? Guarda, così vedi, agganciato, c'è uno e tre di stazionari. E mi sta andando su 200 adesso. Sgancia adesso. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, ti ho portato a 9. Agganciato di 9. Sgancia sui 3. Sì. Questa roba è una bestia. Chi è la gamba? E la radio com'è? È sempre bella. Sempre bella. La pagava. Ma che cosa accadendo, cazzo? Ma io non accendo mai, io lo lascio sempre fermo. Ho iniziato per fare qualche prova, ma non ne uso. Ma comunque è normale che debba scaldare? Sì, un pochino sì. Non deve essere bollente. Se è bollente vuol dire che qualcosa non sta andando, che sta scaldando troppo o che non c'ha aria per dissipare. Non è caldo, è caldo. Ti scaldi le mani tranquillamente. Kappa, tu scalda, per invece di attaccare la stufa, attacchi lo vedi, adesso sono 1 e 1, sto scendo con 9 e va. 1 e 1. Ma mi sa che ce la pongo una ventola sopra, faccio una modifica e la metto. Praticamente vuole a soffiare sopra o a buttare fuori l'aria, come funziona? Cosa? Ho detto la ventola su, l'hai messa, che butti aria sopra il coso o la devi buttare fuori? Oh, l'aria, tu la devi mettere dritta la ventola, come si mette quando si avvita, così la devi mettere. C'è la parte delle viti, no? Dove ci sono i viti, tu la devi mettere sopra così. E poi io lo sai come l'ho attaccata con il mio adesivo, le ho messo il mio adesivo, l'ho attaccata, lo sai, qui sta accanto. fuoco e fischia, vabbè, comunque. Vediamo, adesso lo spento, è freddo, sta raffreddando, dai. È caldo comunque. Ma è normale che debba scaldare già. Scalda, scaldala. È vero, pompo, la scalda. Scalda, scalda, non hai visto che scalda. Come sto uscendo, bene, sì. Ehi, sto uscendo bene. Ehi, sto usando il barattino qua da cominciarmi. Che calas? Ehi, infatti non ti avevo mai detto che bene. Hai visto, tutti pensavano che me l'avevo venduto. Invece ce l'avevo a casa. Alessio, ma il taxi... cosa ti volevo dire? Quante volte sta uscendo il tuo? 15. 15? Sono per fatti, io l'ho regolato, non per fatti. Ma io ho messo maletta, 15 tondi, tondi, tondi. Gli ho aumentato anche le leci e basta. Ah, Pompo, ascolta una cosa, va a 747, quanto ti puoi dare il massimo d'ingresso? Se non mi ricordo male dovrebbe essere massimo 5 silvati, non di più. Perché se no rischi di bruciare i finali che monta lento. Sono in parallelo tutti questi, ma ce ne sono 4 o 5. Ah, 5, 10 watt no. L'istruzione, Luca, di quello lì, è da 5 a 10. Ma che cos'è, Pompo? 10 watt li puoi dare, non di più. Già lo credo, se lo bruci tutto. Anche con quello della valvola che ho io, massimo 10, 15. Se di meno è meglio, e a me non lo satura. No, aspetta, ha ragione Alessio, però se ne dai di meno, ti rende di più di un radio anche. Se ne dai meno di 10, sui 7, 8. Comunque va bene, con 3009 va benissimo. Sì, con 3009 va bene, esce perfetto. Anche con quello di 4000, puoi pilotarlo. Comunque il 3009 è come il garage, c'è una radio che è bellissima. Adesso fa un po' l'attacco, così te lo faccio sentire. No, lei c'è il Condes 4000 che c'è come questo. Invece il 2009 quello che c'ho io, e talmente ho capito bene che non ho mai toccato niente, cioè non ho toccato nel senso, non gli ho cambiato mai trimmer. E bisogna che glieli cambio, così torna a pompare di radio, perché non rende molto, una volta rende bombe. Io ce l'ho portato nuovo, 3009 l'ho comprato nuovo di zecca, l'ho messo lì, usato poche volte, lo accendo ogni tanto, col microfono originale. Ho capito, l'importante è che lo usi, e se lo usi cominciamo, se lo sai, a rompere ogni tanto. No, glielo accendo ogni tanto. Ah beh, allora già va bene. Eccomi qua, sono di nuovo qua, ciao Antonello. Ehi, ciao Tino, saluto io, mi hai sentito? Tino! Ehi! Ma tu l'hai avuto il 747, sì? Il 2. Ma è normale che scaldi così? No, non è normale, però gli puoi mettere una ventola aggiuntiva come aveva fatto Gianni e come ho fatto io. Ehi, vabbè, non è che brucia, molle, scalda, scalda. Sì, vabbè, è normale che scaldi, il dissipatore c'è per quello, non per farlo raffreddare. Voglio dire, può anche bruciarti la mano se la lasci appoggiata. Cosa, scusa, Tino? Ho detto che se la lasci appoggiata, se stai molto modulando, ti può anche bruciare la mano. Ah, vai, scalda, scalda, dai, adesso lo spento, si deve staccare. Vabbè, dai, vabbè, mi organizzo, c'ho la dove avere un avvento, dai. Ma mi sono arrivati tutti a te. Devo controllare, c'è qualche alimentatore, ce l'ho da fare a pezzi. Ehi, calda, ma non è esagerato. No, c'è una che sta fischiando, se vuole entrare entra. Chi è che fischia avanti? Buonasera a tutti, sono entrato a vedere se la radio funzionava ancora. Sì, funziona, funziona, chi sì, buonasera. Pochi mi conoscono, ma tutti mi salutano. Danilo da questa parte, ciao a tutti. Culo, Danilo, ma parla con culo? Vabbè, tu sì, non mi pigli un po' a bomba, quindi ti pigli io più o meno, no? A te, sotto casa. Salivo, con che radio sta modulando? Sempre con 7100. Ah, allora sei a casa, dai, ti dici da su tu casa, sei a casa. È un bel forte qua, è impossibile che sia a casa. Forse no, è di solo. Sì, è casa sua, Dimmi un po', quando ti arrivo da lì io adesso, quando ti sta arrivando? Sempre a 9:20 mi arrivi qua, Lu. Aspetta, guarda adesso, aumentato, 1, 2, 3, prova. Adesso sei salito di 10, 9:30. Va bene, dai, sta andando allora. Allora, questo che sei più lontano, tra tiro e tu, vabbè, non so chi è più lontano. No, già che la sua, tu, arriva forte anche qua, è quasi 9:30. No, qua è 9:30, è un bel puro. Dove ti arrivo io, Dani? C'è un bel forte qua. Ciao, Antu. 9:30 anche tu, però di radio sei perfetto, radio 5 secco. Dani, fammi una fotografia della radio, che non vedo che radio è. Non ho capito, cos'è che mi ha detto Tino? Che radio è quale? La tua, fammi una fotografia, mandala. Mandala, col cellulare che mi si è rotto non pensa che ce l'ho il numero tuo. Però aspetta che controllo. Se non hai cambiato numero ti faccio uno squillo. Tappa, vai. Io vi saluto, vi lascio e ci sentiamo, ok? Ciao Antu, ciao, buona serata. Ciao Antu, ciao. Buona serata, tante cosce belle. Tappa, Luca, guarda che ti porto quella roba, Sì, ci vediamo dopo, forse oltre me, Antu. Sono oltre me, sono un numero un quarto, là. Va bene. Tappa, vai. Ok, ciao, ciao. Ciao Antu. No Tino, fammi lo squillo, in questo cellulare non ce l'ho il tuo numero. Il numero è lo stesso? Sì, sì, sempre lo stesso. Ma io spero quello, va. Ciao Antu, ci sentiamo comunque. Sì, adesso con che microfono stai usando il gas? Con sa Delta, sto usando sa Delta. Già esce bene, anche io sto usando il Galaxy con sa Delta adesso. Ehi, no, già esce benissimo, esce, c'è una bella amplificazione questa radio. Stava, non sai cosa c'è, che mi è stato detto che mettendo questi microfoni amplificati sul Galaxy mi fa partire il coso, il modulatore. Io sento già questa delta qui, anche addirittura il tipo, bastamente a livello C, a parte di livello C, stato un ecco, c'è un finale, è il doppio di quello del 2009, quindi, capito, non lo bucerai mai, puoi metterci qualsiasi microfono. Oh, ma la radio la vuoi accesa? Verde, rossa? Che colore la vuoi la radio? Verde, come vuoi tu? Aspetta che chiamo a Luca. Ok. Luca di Luca. Sì, atti, che mi si stava attaccando il capo, dimmi tutto. Mandami il numero da lì. Te lo mando. Il telefono, io ce l'ho io il suo, io lo sto sistemando. È il mio, lo so qua, lo sai, l'ho cambiato, ho perso un po' di numeri, quindi. Comunque io adesso chiuso che ho attaccato tutto quanto perché la radio qua ce l'avevo dentro la scatola, per dire la verità dentro il camper, e l'ho accesa per provare come stavo andando, perché mi si è rotto l'analizzatore d'antenna e stavo guardando per se la radio funzionava, ma la radio funziona ancora, per fortuna, dai. Ah, te l'ho mandato, Tino. Grazie. E come mai da lì tutto questo tempo che non ti ascoltavo? C'avevo la radio dentro il camper, smontata, era dentro il gavone. E non avevo mai cane di entrare a pigliarlo, zero. Da poco ce l'avevo qua in casa, che sono rientrato nuovamente a prendere tutto quanto, che dovevo controllare l'antenna di Luca. E ho controllato lo strumento e più, rimane bloccato, non si muove, accende ma non va da nessuna in nessun menu. Comunque la radio adesso l'ho accesa, funziona bene, non ci sono problemi con la radio. Sì, vabbè, magari sarà qualche presidia come è stato fermo, magari non lo so come va quell'apparecchio lì, a cosa batteria, ma non la sentita. K, avanti, Lucchezia. Nannini, ma che cazzo è sto? Aspetta un attimo che fanno questo corso. E adesso, forse sta chiamando a Danilo. Tino. e dopo faccio un salto di là, da. Mi svetta un po' piccante. Scappa, capo. A cantare, ciao, voi. No. Abbiamo una birretta. Che barriera. Beh, ci sono donne anche, va. Ma non ce n'è donne. Nei circoli vanno sulle masse. E allora, tu lo dici. Si va. Ma c'è una buona e ricca. Magari. Una che ti ingappa. Cosa? Magari non c'è più una che ti ingappa, non devi manco travagliare. No, ma non ne voglio una che mi ingappa. Avrei preferito un lavoro io a campare al giorno. Ma io vabbè, già lo so. Ma è una fortuna trovare una così. Come le cose che mi sto facendo, me le sto facendo in tasca mia, non in tasca degli altri. Lo so. Bravo Luca, bravo. Come tu. Così si fa, perché poi alla fine poi viene, come si dice, ma e quando ti fanno le cose gli altri poi ti ricattano, capisci? Cioè non ti ricattano, ti, ma mi viene la parola adesso. E lo rinfacciano. Te lo rinfacciano, bravo, come ho sempre fatto e continuano a farlo. E vabbè, sai la pensate che diano. Ma io sono professo come te a zapparmene, almeno più quando faccio la cosa sono soddisfatto di quello che ho fatto. Cazzo, ma è normale già, vabbè, perché mi hanno fatto questo dente un bel lungo, cazzo era lungo veramente, ma è normale cazzo che è un po' puzza. E dico perché ancora c'è il buco con i punti, puzza. Luca, ehi a te. Non sai che non riesco a salvare il numero, porca miseria, mi dice che è impossibile salvare il contatto. Che telefono hai? Sì, la che si chiama, Axiomi, non mi ricordo, 11. No, per me è possibile. Guarda che ci dovrebbe essere un più, vai lì, poi ti aggiungi la rubrica. Crea nuovo contatto, aggiungi al contatto esistente. Ho fatto sia uno dell'altro, ma non riesco a salvare. Una specie di procura. Un bello, mi sono accorto la mia compagna, che è bello veramente. Quello che stanno venendo adesso. Perché Huawei lo sai che non è stato più comprato nessuno perché non ha fatto il contratto con Google e non prende più Google. Ma riprendi un po'. Ah, non mi stavi ascoltando? Già sono qua, stavo controllando una cosa. Controlla con lui. E già fatto. Tu pari con le PC 60 quando ti avvicini. Nani? Dimmi. Ma questo non è 7.06? No, è lì con WC 7100. Ah, vabbè, vabbè, ma la linea è quella, ciao. Bello, sì, mi piace. Ma metti? Sì, lo so perché non lo so, bravo, perché era troppo lungo il nome che stavo mettendo, vabbè. Mettevi Lillo e basta. Lillo, infatti, è scritto Lillo, è proprio lei con Lillo. Buon Andy. Ah, tu mi piace un Lillo io. Lillo spazza carrozze. Lillo, andiamo a sparare da lì. Vedi, oggi è stato bello andare, vedi? Portiamo anche a tiro di là. Se ne fate tenetemi in considerazione, ve le compro. Tanto c'è Mimmo, uno che sta a circolo d'amico, sì, quello che c'è vicino a casa. Cazzo, ne sta facendo un bel. Praticamente te ne dà un mazzo. Non è grande né piccolo, quindi te ne dà 5 euro. 10 euro, ma un bel te ne dà. Tanto io riprendo, c'era un ragazzo che li faceva ma poi non si è fatto più sentire, mi sembra che era 43 euro in mare, non lo so, mi ricordo. Io l'ho sempre pagato 5 euro in mare, li faceva anche nipote di questo amico mio, mi chiamava e mi diceva guarda che c'è mio nipote, non è che ti servono a sparare, perché gli ha portato la frutta e verdura e ne ha preso di meno oggi. Li prendevo, non c'erano problemi. Poi mi dava 5 euro al mazzo. Vabbè, ma dipende quanto ce ne sono nel mazzo, capito? Molta gente le vende così a numero. Ti ripeto, come prendo qui e vendeva così poi. Sì, vabbè. No, questo mazzo era bello grosso, Non posso dire che era piccolo, era bello massiccio. Era legato con la raffia, teneri teneri, infatti lì. Ma va nei paesi a farli, non va qua vicino. Dai, io sto chiudendo, dai, ci sentiamo magari anche domani, dai. Oppure un altro momento. Dai, alla prossima, ciao a tutti. Ciao, ciao, Rani, ci sentiamo. Ascolta, ma in quell'apparato lì ci può mettere l'MC60? Sì, già, sì. Ciao, dai, ciao, ciao. Ciao, Dani, ci sentiamo. Sì, si può mettere, però devi avere o lo spinotto che fa da Kenwood, come ce l'ho io, da Kenwood a... RG45, oppure direttamente con l'RG45 che devi farti trovarti tutti quanti i cavi. Però io sto usando l'MC60. Cavolo, va bene, dai. Ma tu hai usando il microfono normale o c'hai qualche altra città? No, adesso sto usando l'MC60, se me te lo faccio sentire con il microfono originale. Ma perché non sento molta amplificazione, non è che è sbagliato magari, non so, c'è un tastino dietro. No, è così originale. Il cavo che ho comprato, che fa da RG45 a spinotto Kenwood femmina, è originale dalla casa così. Magari sarà qualche cosa di diverso, non lo so. Comunque me l'aveva già detto Claudio, che non esce amplificato questo microfono, che non usciva, perché sicuramente c'ha qualcosa questo microfono che non lo manda in amplificazione. Comunque i pulsanti li avevo quanti schiacciati e niente, non cambiava niente. Oh, che strano, non è che ci sia qualche cosa nel menu da toccare? Ma no, questa radio c'ha un milione di cose, un milione di impostazioni, filtri e balle varie. C'ho un bel di cose, se inizia a toccare non esco più, non so più cosa toccate, non so più da dove rientrare. Quindi conviene neanche toccarne. Sì, vabbè, lasciate che ci sentiamo. Vabbè, è una domanda così, pensavo che avessi un microfono normale. Perché la radio sembra dinamica, capito? Però è buona la radio, senza problemi. Adesso ti collego il microfono originale, guarda quanto sto uscendo adesso, la radio e tutto quanto, qua ti faccio vedere la differenza. Ok, adesso sono con la radio originale, con il microfono originale. Scusa se te lo dico, ma mi piace più questa. No, ma tutti quanti me l'hanno detto, però quando esco con... calcola che questa radio in AM il processore non funziona, in AM questa radio il processore non funziona in 27 MHz, in 11 metri, però... con questo microfono tutti quanti mi hanno detto che esco meglio, però io preferisco l'MC60 perché rimane sul tavolo e viaggio bene con quello. Ma non è che perché non entra il processore che è così che la radio risulta normale? È normale, se non ti entra il processore è quello. Ma questa radio è così, questo 7100 è l'unico che il processore non va con la M, però se vuoi ti faccio vedere una differenza in FM oppure in banda laterale ti faccio vedere la differenza che ha questa radio. Prova a passare sul 15, scusate un attimo. Sul 15, tu e tutti quanti i canali, io canali non ho, io ho frequenza, dimmi che numero è il 15, così vado direttamente. 27135. Ok, grazie Tino. Andiamo bene, andiamo. Tu cacci. Lasciato non lo spiegare, 5 centimetri. Ma ero misurata da forse magari quando l'ho piazzata a Fabrizio era proprio messa poco poco più alta, non lo so, 4 cm mi segna. Da fascetta a fascetta, io mi ricordo 5 cm da manuale. Non lo so. Vabbè, non ho fatto 1-1, ma che sia. È data per 1-1 l'antenna, quindi. Ma niente, non è proprio niente. Prima a vedere se attaccare ora. Vediamo, fammi un passaggio senza essere attaccato. Bene, bene, ora. Aspetta che muovo i bicicli. E adesso l'ho sganciato, ti guardo. E poco fa non lo sganciavo il relì perché non stava toccando bene, anche se era acceso. L'alimentatore non stava facendo contatto bene, là. Allora, sganciato. E agganciato, guarda un po'. Fai da 9.25 a 9.35, diciamo che col fischio vai a toccare il 38, là. Non arrivi a 40, ci manca una pacchetta a 40. Non va bene, cazzo, va bene, ma prima io mi ricordo, prima di sistemare l'antenna, non ti arrivavo, mi sa attorno ai 9.10, vero, o no? 9.15, una cosa del genere. Facciamo migliorato. Poi a voglia. Allora va bene, dai. Sì, vabbè, sei 9.25 quasi. Ecco, andiamo avanti. Ciao Luca, ciao Tino. Era giusto per darti un controllo da quale sono più lontano. A casa mia fai staccato 9 quasi 10 a 9.25 quando attacchi. Già sta andando bene, ciao Massimiliano. Già sta andando bene allora, dai. Però le voglio mettere una ventola su perché sta scalda, non mi piace mostrarla così, non è un mercato però, penso che sia normale che scaldi così. Aspetta, saluto Massimiliano, ciao Massimiliano, beh. Ciao T, buonasera e ben ascoltato anche a te, dai. Sì, qua ero di passaggio che stavo ascoltando, là. Ma hai fatto bene entrare. Gappa, gappa. Già è buono, la vento la gatta, 747, ma lascio così. Vabbè, diciamo che se lo usa spesso già scalda, ma cos'è? Un uccello che fischia? Ehi, c'è una calopsite. È l'uccello di mia figlia, capito? E quindi ce l'ho qua nella sala da c'è la radio, ma non rompimento di balle. Io ho due cucurite, adesso sono zitti perché gli aspetto l'occhio di cucina, così almeno non rompo, sono sempre fischiato. Sì, sono così, sono. Vabbè, questo è leggermente più grande di una cucurita, solo che dietro c'ha la cresta, là. Già la conosce la calucina. Sì, la conosco. Vai Luca. Buonasera, amigos del canale, due dei un corsicano, Vabbè, spaghi c'è uno spagnolo è entrato, c'è propagazione, no? Sì, ma arriva il masso qua. Ciao Eugenio. Buonasera a tutti, sul canale di Vegas. Adesso vedi Eugenio, tu sei più lontano, ho migliorato, sì. Sì, lui, arrivi con gli assetti. Arrivi con gli assetti. Modulati siete pieni. Io a Bulldoggio. Ciao, buonasera Tino Muscolo. No, aspetta che ti fa una prova Luca che sta provando un 747. Vai Luca, vai. Ehi, guarda qua, così sono liscio. E così con le bollicine, guarda un po', ha migliorato. Sì. 9. Ma si va 7 a 9. Cioè è buono, là, è buono. Già è buono, andava bene, là. Dunque lo uso quando fa bisogno. Sai cosa mi puoi salvare il tuo visore? Buongiorno! Ciao Luigi, buonasera, ben ascoltato. Là, adesso sei entrato tu e me ne vado io, là, va bene. Ciao, tutto a posto? Tutto a posto, che faccio adesso? Stavo lavorando, sta entrando un ventone, ragazzi, allucinante. Ormai la Tirrenia non entra un porto chiuso e mi rimango a casa finalmente, una lì. Oh, che bello. Se vuoi lavorare saltami addosso, usci. Va bene. Ascolta, il figlio di Fanio è saputo, sì. Non averlo sentito, che è mio figliuccio. Vabbè, com'è la situazione? Perché io le ho mandato un messaggio il giorno che è successo, già mi ha risposto la sera, ma... Era a posto, sì, diciamo, nel male è andata bene. No, nel male è andata bene, vai, a casa, tranquillo, adesso niente, sta... domani ha messo la commissione del dottor Istituto Sballatti, domani inizia a fare fisioterapia, niente, sta prendendo dei farmaci antibiotici perché ha anche un polmone lesionato, deve stare tranquillo perché c'è anche una vertebra rotta, fratturata. Ah, ecco, vabbè, già me lo stavo dicendo Fabio, no? Vabbè, meglio così, dai. Come si può dire, una ragazzata uscita male, diciamo, no? E vabbè, una bravata, le cazzate le abbiamo fatte un po' tutti. È positivo, vabbè, è così. Ok, dai ragazzoni, io vi lascio, ho fatto la mia presenza anche oggi, dopo una settimana forse, piano piano mi sto avvicinando, dai. Ok, dai, riprendi Tino, io vi saluto comunque, grazie di questo piccolo consiglio, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Eugenio, Luca, Tino e chi fosse in ascolto del canale 10, ciao. Riprendo io, vai, ciao Massimiliano. Mi ha fatto piacere riascoltarti, vai, rientra più spesso. Vai Luca. Va bene, non c'è Luca, vai Eugenio. Un bacio dove vuoi tu, ciao. Ciao, ciao. Guardati, il problema, sai perché anche non sto entrando? Il problema è che c'è un vicino che ha la macchina dell'ossigeno, no? Allora, in poche parole, questo vicino sicuramente la mattina la stacca, quindi QRM a 0, quando attacca questa macchina mi sale QRM a 9, e quindi non ci vuole manco entrare. Quindi quelli bassi non li sento, rumoroso, un rumore strano, va. Adesso per esempio non ce l'ho, adesso c'ho QRM a 0. È un po' anche per quello che mi sta disturbando, capito? Ti capisco, perché io ho lo stesso problema quando attacco un inverter, con le pannelle solari e voler fare, no? Quindi lo tengo più staccato che altro. Mi sale il problema a casa 7-8, quindi giustamente da fastidio. Però tu hai la possibilità di bucargli le bombe dell'ossigeno, ma io qua no, non ce l'ho. No, ma volevo mettere un coso, capito? Un dipolo che lavora in orizzontale. Vediamo un po' se cambia. Posso fare un nuovo fantasma un attimo? No, guarda, mi aspetta. Vediamo, ti passo io un dipolo adesso, aspetta. Però devi anche attaccarti con l'inverter per vedere se ti dà fastidio. Faccio una nuova improvvisazione orizzontale. Non so se mi ascolti, prova. Sì, ti ascolto. Santiago, sì, ti ascolto. La radio è un po' più bassina, però ti ascolto, va. Però bisogna vedere, ti elimina il disturbo che attacchi l'inverter così in orizzontale. Sì, abbiamo fatto correre, quindi credo di sì. Però, aspetta, mi raccolgo. Allora, ecco qua. Cambia. Ok, dai. Vabbè, adesso ci penso, dai, vediamo un po', sicuramente mi si sono bucate le bombole perché adesso QRM non ne ho. Va bene, dai, di nuovo, vi lascio, vai oggi, riprende e vi saluto, ciao. Ciao Massimia, mi ha fatto piacere. Poi, si sente. Cosa stai mangiando, boh? Mia moglie mi ha fatto le croccante di pollo e quelle croccante che mi piace un bel. Ma io mia abitudine era la domenica sera di andare a mangiare, anche perché tra una cosa e l'altra mangiamo tardi la domenica, no? Quindi, e poi insomma, mangio più del dovuto e evito di mangiare la sera. Se no io sono entrato adesso, mangio una mamma e non vedo più. Non metto in dubbio. Allora sì. Com'è? Questo cazzo sta viaggiando? No, adesso è a riposo. Dai, non si mosso. No, sono incasinato un po' con le partite di mio figlio, adesso per dire domenica dobbiamo andare al Zieri, tra una cosa e l'altra devo essere alle 10 meno un quarto lì, cosa farò? Un campo, poi tornare a casa, no. Quando andiamo qualche tempo più lontano, allora ci penso e vado a sera oppure la mattina presto e mi cammino, faccio la giornata fuori. Ma tu lo tieni a casa? Sì, sì, in piazzale. Non ho purtroppo la possibilità di tagliarlo alla coperta, però vabbè. Ma perché lo tengo a casa? Adesso questa estate mi sollevo il garage e lo metto sotto, lo metto dentro il garage. Io non ho, non è al momento, sinceramente non lo posso fare, quindi rimane così. Ma io se sono trasferiti, dove hai comprato tu? Che cosa? Dove l'hai comprato tu, sono trasferiti, ma hai visto che è bello? Sì, sì, sono tanto da poco, Matteo, sono passati assieme. Sì, perché è molto meglio, caspita. Il capannone è veramente una cosa bella. Sì, sì, e poi ce ne stanno di più anche. Ho detto, ce ne stanno anche di più. Due o tre mezzo di cedro, lo so, eh. A voi di più, a tanto. Non lo so. Aspetta, ma quanto sono aumentati i prezzi, eh? Mi ha fatto un paragone, uno nuovo, per dire, se lo paghi, che adesso 45, ti viene intorno a 55. Sì, i prezzi hanno lievitato. Sì, sì, è vero. Allora io ho preso così la briga di vedere quanto può valere quello che ho preso io, mi segna 5-6 mila euro in più. No, no. Ma secondo me, sinceramente parlando, non si deve fare, capito? Cioè, poi non so cosa dirti. Se il mercato è quello, lo puoi anche mettere in vendita, ma uno che ci ragiona un po' più dice che non so, sono belli di anni. Sono evitati tutti i prezzi. Sono evitati tutti. Cioè il mio adesso 100.000 mi vuole fare. Evitato, però c'è, io ho visto tanta di quella gente che adesso lo sta vendendo, sta cercando di venderlo, ma ho visto anche tanta di quella gente l'anno scorso a Cosoma che non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita, c'è stata una schierata di camper non differente. Lo so, sì, è nel piazzale delle saline, e proprio un altro po' non riesci neanche a passare a piedi. Vabbè, che devo fare da mangiare al piccolo adesso, che mia moglie ormai che ne ha voglia oggi, stanca, quindi devo preparare il latte, tra l'altro, preparare tu, vabbè, mi devo preparare. Ok, anch'io, mi ha fatto piacere di sentirmi, ci sentiamo domani, che sono libero, sono a riposo. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti e buona cena, ciao! Andate, ciao, salutone, ciao a tutti.